Charlotte Bronte. Ma la vita è una battaglia. Lettere di libertà e determinazione. Edite da Lorma Editore. Traduzione e cura di Laura Ganzetti. Ma la vita è una battaglia. A Ellen Nussey, una delle più intime amiche di Charlotte. 21 luglio 1832. Mia cara Ellen, sono stata davvero felice di leggere la tua lettera così gentile e interessante. Da quando sono tornata a casa ho aspettato ogni giorno di avere tue notizie e quasi avevo iniziato a disperare di riceverne. Mi chiedi di raccontarti le mie occupazioni quotidiane da quando ho lasciato la scuola. Non ci vorrà molto, il resoconto di una giornata vale per tutte quante. Di mattina, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, do lezione alle mie sorelle e disegno. Poi aspettiamo il pranzo facendo una passeggiata. Dopo mangiato mi dedico al cucito fino all'ora del tè e dopo il tè leggo, scrivo, ricamo, disegno. E così in questo modo gradevole, pur talvolta noioso, trascorre la mia vita. Da quando sono tornata ho preso il tè fuori di casa soltanto un paio di volte. Ogni pomeriggio aspettiamo compagnia e giovedì prossimo dovremo ricevere per il tè tutte le insegnanti della scuola della domenica. Mia carissima, spero per il tuo bene che riprenderai presto la scuola, anche se egoisticamente per me sarebbe meglio che tu restassi a casa, poiché avremmo più occasione di scriverci. Se i tuoi amici dovessero deliberare contro il tuo ritorno a scuola, sono certa che il tuo buonsenso e la tua assennatezza ti indurranno a non smettere di impegnarti con fervore per la tua crescita personale. Le tue doti naturali sono eccellenti e sotto la guida di un saggio e valido amico, e so che ne hai diversi, potresti sviluppare un gusto sicuro per la letteratura più raffinata e persino per la poesia, che è inclusa all'interno di questo termine più generale. Mi è dispiaciuto moltissimo non ricevere una tua ciocca di capelli. Puoi star certa, mia cara Ellen, che avrai pagato la doppia francatura per averla, ma devo risponderti con la medesima scusa per non inviarne una nuova. Mia zia e le mie sorelle ti salutano caramente. Ricordami a tua madre e alle tue sorelle. Con autentico affetto, la tua vera amica, Charlotte Bronte. PS. Non scordarti la nostra promessa di scriverci regolarmente. A Robert Southey, poeta, saggista e editore. 16 marzo 1837. Signore, sebbene tornare a scriverle una seconda volta mi possa far apparire inopportuna, sento in me la necessità di rispondere alla sua lettera. La voglio ringraziare per i cortesi e saggi consigli che mi ha voluto dispensare. Lei non mi vieta di scrivere, né sostiene che ciò che scrivo sia assolutamente privo di valore, bensì semplicemente mi ammonisce contro la follia di trascurare i miei doveri in ragione delle gioie dell'immaginazione, di scrivere per amore della fama e per la frenesia egoistica dell'emulazione. Mi permette cortesemente di scrivere poesia per il piacere che procura, a patto che per inseguire questa singola, coinvolgente e squisita gratificazione, non tralasci i miei compiti reali. Temo, signore, che mi ritenga molto sciocca. So che la prima lettera che le ho inviato suonava completamente assurda, ma non sono l'essere pigro e sognante che sembro. Sono la figlia maggiore di un pastore che, tenendo in considerazione le sue modeste risorse economiche, ha speso quanto ha potuto per la mia formazione. Ho creduto mio dovere lasciare la scuola per svolgere il mestiere di governante, mestiere che mi occupa tutta la giornata senza lasciarmi il tempo di far volare l'immaginazione. Di sera, lo ammetto, mi soffermo a pensare, ma mi guardo bene dal disturbare gli altri con le mie riflessioni. Evito accuratamente di manifestare inquietudini ed eccentricità che potrebbero indurre a indovinare le mie ambizioni. Seguendo l'ammonimento di mio padre, che fin dall'infanzia mi ha impartito suggerimenti saggi e affettuosi quanto i suoi, ho tentato non soltanto di osservare con scrupolo i doveri che una donna deve adempiere, ma anche di appassionarmi a essi. Non sempre ci sono riuscita. A volte, mentre insegno o sono impegnata a cucire, sento che preferirei di gran lunga dedicarmi alla lettura o alla scrittura. Eppure, contengo i miei impulsi e finora l'approvazione paterna ha abbondantemente ricompensato questi sacrifici. Mi permetta di ringraziarla di nuovo, con sincera gratitudine, Charlotte Bronte. A Ellen Nussey, 12 marzo 1839. Mia carissima Ellen, mi chiedi se ho ricevuto una lettera da Harry? Sì, è arrivata circa una settimana fa. Devo confessare che il contenuto mi ha sorpresa, ma non ne ho parlato con nessuno e se non me l'avessi chiesto direttamente non avrei fatto cenno neanche a te. Harry mi scrive di essersi ben sistemato nel Sussex, che la sua salute è molto migliorata e che ha intenzione di cominciare a dedicarsi all'insegnamento a partire da Pasqua. Continua dicendo che al momento opportuno vorrebbe poter contare su una moglie che lo aiuti a occuparsi dei suoi allievi e ha chiesto a me di diventare quella donna. La lettera è scritta senza ipocrisia o adulazione, con un buon senso che fa onore al suo giudizio. Mia cara Ellen, la proposta mi ha davvero tentata. Mi sono detta che se avessi accettato tu avresti potuto vivere con me e ho pensato a quanto ne sarei stata felice. Ma poi mi sono posta due domande. Amo Harry quanto una donna deve amare suo marito e sono la persona giusta per renderlo felice? Ellen, la mia coscienza ha risposto di no in entrambi i casi. Sento di aver stima per Harry, è un uomo gentile, di buon carattere, ma non nutro nei suoi confronti e mai potrò nutrire un attaccamento abbastanza intenso da farmi desiderare di morire per lui. Se mai mi dovessi sposare, lo farò con un uomo che adoro a tal punto. Certo, rischio che non accada mai, ma n'importe. Inoltre, so che Harry mi ha chiesto la mano pur conoscendomi molto poco. Scoprendo un po' alla volta la mia intima natura nella quotidianità domestica, si sarebbe spaventato, mi avrebbe ritenuta quantomeno sregolata, romantica, preda di facili entusiasmi. Ma io non potrei starmene tutto il giorno davanti a mio marito con un'espressione seria dipinta sul volto. Vorrei poter ridere e scherzare a mio piacimento, sentendomi libera di dire ciò che mi passa per la mente. È così che se lui mi amasse e fosse un uomo intelligente, non sentirei alcun peso. Fosse anche quello del mondo intero nel realizzare il suo più piccolo desiderio. Così gli ho risposto con una lunga lettera in cui ho espresso le ragioni del mio rifiuto nel modo più delicato possibile e ho descritto il tipo di donna che a mio parere sarebbe la moglie più adatta per lui. Ti saluto, mia cara Ellen. Scrivimi presto e fammi sapere se sei arrabbiata con me. Charlotte Bronte. A Ellen Nussey, maggio 1842, Bruxelles. Cara Ellen, un paio di settimane fa ho compiuto 26 anni e in questa fase già matura della vita eccomi di nuovo studentessa a tutti gli effetti e per dirla tutta ne sono davvero felice. Sulle prime è stato molto strano dovermi sottomettere all'autorità anziché esercitarla, obbedire agli ordini invece di impartirli, ma di fatto è una condizione che mi piace, a cui sono tornata con una stessa eredità con cui una mucca tenuta a lungo a fieno secco ritorna all'erba fresca. Non ridere di questo paragone. Per me è tanto naturale sottostare quanto è del tutto innaturale comandare. Questa è una grande scuola. Ci sono circa 40 studentesse externe che passano qui soltanto la giornata e 12 pensionier o residenti. La signora Eger, la direttrice, ha esattamente lo stesso modo di pensare, la stessa formazione e le stesse qualità dell'intelletto della signorina Catherine Wooler, rispetto alla quale è solo meno severa. Poiché credo non è stata delusa dalla vita e non si è inacidita. In poche parole, è sposata invece che nubile. Nella scuola ci sono tre insegnanti, Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Sophie e Mademoiselle Marie. Le prime due non hanno un carattere degno di nota, una è una vecchia zitella e l'altra lo sarà un giorno. Mademoiselle Marie invece ha talento ed è originale, ma ha modi scostanti e sgradevoli, cosa che le ha inimicato l'intera scuola a eccezione di me ed Emily. Meno di 7 insegnanti provvedono alle diverse materie di studio, che sono francese, disegno, musica, canto, scrittura, aritmetica e tedesco. Sono tutti cattolici, tranne me, Emily, un'altra ragazza e la governante dei figli della direttrice, una signora inglese il cui rango è a metà strada fra quello della cameriera e quello della bambinaia. La differenza di nazionalità e religione segna un confine molto netto tra noi e tutte le altre. Siamo completamente isolate, seppure in un gruppo tanto numeroso, eppure non sono mai infelice. La vita che conduco qui è piacevolissima e mi è tanto più congeniale rispetto al ruolo di governante. Sono sempre occupata e mi pare che il tempo passi fin troppo rapidamente. Finora sia Emily che io siamo state in buona salute e abbiamo potuto lavorare bene. E non ti ho ancora parlato di una persona, il signore Eger, il marito della signora. È professore di retorica, un uomo di grande intelligenza, ma iracondo e irritabile, un esseruncolo bruttino con la capacità di trasformarsi da un momento all'altro. A volte sembra un gatto impazzito, altre assomiglia a una iena delirante. Ma ogni tanto, molto di rado, abbandona questi comportamenti e assume un contegno non troppo lontano da quello di un mite gentiluomo. In questo momento è molto arrabbiato con me per via di un lavoro di traduzione che è definito poco rette, non certo perché lo fosse davvero, bensì perché quando l'ha letta era di cattivo umore. Non me ne ha parlato a voce, ha preferito scrivermelo sul margine del quaderno. Mi ha anche chiesto perché i miei temi siano sempre migliori delle mie traduzioni, cosa che gli risulta inspiegabile. Il fatto è che qualche settimana fa, in un suo momento di buon umore, mi ha proibito di usare il dizionario o la grammatica francese per tradurre brani dall'inglese, peraltro difficilissimi. Ovviamente in questa maniera tradurre mi è molto più arduo e a volte sono obbligata a inserire alcune parole in inglese, il che gli fa schizzare gli occhi fuori dalle orbite. Con Emily non vanno per niente d'accordo. Quando è particolarmente severo con me, io mi metto a piangere e alla fine questo rimette le cose a posto. Emily lavora come un mulo e deve affrontare difficoltà più grandi delle mie. Dal momento che i corsi sono pensati per studentesse madrelingue e in strutture come questa, non cambiano certo i programmi per una o due allieve straniere. Chi viene a studiare in una scuola francese è chiamato ad avere una conoscenza pregressa della lingua davvero solida, altrimenti rischia di perdere moltissimo tempo. Immagino che le poche lezioni private che il signor Eger si è degnato di concederci siano da considerare come una sorta di grande favore personale, e mi sono accorta che in classe hanno già suscitato dispetto e invidia. Mi rimprovererai di averti scritto una lettera troppo breve, vorrei raccontarti centinaia di cose, però non ne ho proprio il tempo. Tu scrivimi e rallegro il tuo cuore di carità cristiana. Bruxelles è bellissima, i belgi odiano gli inglesi, il loro moralismo di facciata è persino più rigido del nostro. Allacciarsi il busto senza essersi coperte il collo è considerato di cattivo gusto e indelicato. Ricordami a Mercy e a tua madre, mia cara Ellen, e sappi che anche se c'è un mare che ci divide, sono sempre tua, Charlotte Bronte. A Constantine Eger, 8 gennaio 1845, Haworth, Bradford, Yorkshire. Il signor Taylor è tornato e gli ho domandato se avesse una lettera per me. No, nulla. Pazienza, mi sono detta, sua sorella arriverà presto. È tornata anche la signorina Taylor. Non ho niente per lei da parte del signor Eger, ha detto, né lettere né messaggi. Ho capito quel che c'era da capire. Mi sono ripetuta ciò che avrei detto a chiunque altro si fosse trovato nella mia stessa situazione. Devi rassegnarti e soprattutto non affliggerti per un dolore che non meriti. Mi sono sforzata di non piangere, di non lamentarmi, ma quando non ci si lagna e ci si costringe tirannicamente a dominarsi, ogni facoltà inizia a ribellarsi e si paga la calma esteriore con una lotta interiore quasi insostenibile. Giorno e notte non trovo riposo né pace. Quando riesco ad addormentarmi sono tormentata da brutti sogni, sogni in cui lei è sempre severo, sempre accigliato, sempre arrabbiato con me. Mi perdoni dunque, signore, se mi sono decisa a scriverle ancora. Ma come potrei sopportare la vita senza alcuno sforzo per alleviarne la sofferenza? So che leggere questa lettera la farà innervosire. Si dirà ancora una volta che sono un'esagitata, che ho pensieri cupi e così via. E sì, non voglio giustificarmi, accetto ogni suo rimprovero. Ciò che so è che non posso e non voglio rassegnarmi a perdere del tutto l'amicizia del mio maestro. Preferirei patire i più grandi dolori fisici che avere il cuore lacerato da rimpianti tanto cocenti. Se il mio maestro mi priva di tutta la sua amicizia, perderò ogni speranza. Ma se me ne concederà un poco, anche solo pochissimo, sarò contenta, felice, avrò un motivo per vivere e per lavorare. Signore, il povero non ha bisogno di molto per vivere, chiede soltanto le briciole che cadono dalla tavola dei ricchi. Ma se gli sono negate, morirà di fame. Così anch'io non ho bisogno di un grande affetto da parte delle persone che amo. Non saprei cosa farne di un'amicizia piena e completa, cosa a cui non sono abituata. Eppure, quando ero sua allieva a Bruxelles, lei ha manifestato un poco di interesse nei miei confronti e tengo a quel poco quanto tengo alla vita stessa. Forse mi dirà: non provo più il minimo trasporto per lei, signorina Charlotte, non fa più parte della mia vita, l'ho dimenticata. Ebbene, signore, se le cose stanno così, me lo dica con franchezza. Ne resterò sconvolta, ma non importa, sarà comunque meno orribile dell'incertezza. Non voglio rileggere questa lettera, la spedisco così come l'ho scritta. Tuttavia, ho l'oscura consapevolezza che persone fredde e assennate, leggendola, potrebbero dire: costei vaneggia. Per vendetta, curerei a costoro un solo giorno dei tormenti che ho subito negli ultimi 8 mesi, e allora voglio vedere se non vaneggerebbero anche loro. Si soffre in silenzio finché se ne ha la forza, quando questa viene meno, ci si lascia andare senza misurare troppo le parole. Le auguro, signore, felicità e prosperità. Charlotte Bronte. Costantinegère, 18 novembre 1845, Haworth, Bradford, Yorkshire. Signore, i 6 mesi di silenzio sono trascorsi. Siamo oggi al 18 novembre. La mia ultima lettera è datata, credo, 18 maggio. Posso dunque scriverle ancora senza mancare la mia promessa? L'estate e l'autunno mi sono sembrati lunghissimi. In verità sono stati necessari sforzi dolorosi per sopportare fino ad ora la privazione che mi sono imposta. Lei, signore, non può comprendere cosa significhi tutto ciò, ma provi a immaginare per un istante che uno dei suoi figli sia lontano 160 leghe da lei e debba restare 6 mesi senza scrivergli, senza ricevere sue notizie, senza sentirne parlare, senza sapere della sua salute. Allora capirà facilmente quanto può essere duro un simile vincolo. Le dirò con franchezza che nell'attesa ho cercato di dimenticarla, poiché il ricordo di una persona che si crede di non dover più rivedere e che tuttavia si stima profondamente consuma lo spirito in profondità. E quando si è patito questo tipo di tormento per 1 o 2 anni, ci si ritrova pronti a tutto pur di ritrovare la pace. Ho fatto di tutto, ho cercato di tenermi occupata, mi sono negata nella maniera più assoluta il piacere di parlare di lei, perfino con Emily, ma non sono riuscita a sconfiggere né i miei rimpianti né la mia impazienza. È umiliante il non saper dominare i propri pensieri, l'essere schiava di un rimpianto, un ricordo, schiava di un'idea imperante e fissa che tiranneggia lo spirito. Perché non posso nutrire per lei l'amicizia che lei nutre per me, né più né meno? Sarei allora così tranquilla, così libera? Potrei mantenere il silenzio per 10 anni senza sforzo? Posso scriverle ancora il maggio prossimo? Avrei voluto attendere un anno intero, ma mi è impossibile. Un anno è troppo lungo. Charlotte Bronte. Le dico una cosa in inglese. Vorrei scriverle lettere più allegre. Rileggendo questa l'ho trovata cupa, ma mi perdoni, mio caro maestro, e non si arrabbi per la mia tristezza. A Margaret Wooler, direttrice della scuola di Roe Head, 30 gennaio 1846, Haworth. Mia cara signorina Wooler, ho avuto molte preoccupazioni e adesso vorrei vendere le nostre azioni e scegliere un investimento più sicuro, seppure meno remunerativo. Tuttavia non riesco a persuadere le mie sorelle a considerare la questione del mio punto di vista e preferisco correre il rischio di subire una perdita economica piuttosto che ferire Emily, agendo in contrasto con la sua volontà. È stata lei ad amministrare i miei interessi nel migliore dei modi mentre ero a Bruxelles e non potevo occuparmi dei miei affari. Dunque gliene lascerò la gestione accettandone le conseguenze. È senz'altro una persona vivace e disinteressata, e anche se non è così disponibile e aperta alle mie convinzioni come vorrei, bisogna sempre ricordare che la perfezione non rientra tra le caratteristiche dell'essere umano. Finché ci è possibile, dobbiamo nutrire una profonda e incontrollabile stima per le persone che amiamo e alle quali ci sentiamo più vicine. Poco importa se a volte ci infastidiscono con idee che ai nostri occhi appaiono irragionevoli e testarde. Lei, cara signorina Wooler, conosce bene quanto me il valore dell'affetto tra sorelle. Credo che al mondo non esista nulla di comparabile, qualora esse siano quasi coetanee, affini per cultura, gusti e sensibilità. Mi chiede di mio fratello Branwell, non ha intenzione di cercarsi un lavoro e comincio a temere che si stia rendendo inadatto a ricoprire un qualsiasi rispettabile ruolo sociale e del resto se avesse un po' di denaro a disposizione lo spenderebbe soltanto a suo danno. Ho paura che la sua capacità di autocontrollo sia pressoché svanita. Mi chiede se secondo me gli uomini non siano esseri strani, altro che se lo sono. Ho pensato spesso e ho anche pensato che sia altrettanto strano il modo in cui sono educati, dal momento che trovo che non siano abbastanza protetti dalle tentazioni. Le ragazze vengono difese come fossero qualcosa di molto fragile, oltre che sciocche, mentre i ragazzi sono lasciati liberi nel mondo come se fra tutti gli esseri viventi fossero i più saggi e i meno esposti alla corruzione. In gioventù, nel fiore degli anni, lei ha lavorato duramente, ha sacrificato ogni piacere, quasi ogni svago, ma adesso è una donna libera e ha davanti, mi auguro, ancora molti anni di forza e salute durante i quali potrà godersi questa libertà. Ho infine un altro motivo per allegrarmi assai egoistico, a quanto pare dunque anche una donna sola può essere felice, tanto quanto una moglie adorata o una madre orgogliosa. Sono lieta di questo. Ho riflettuto a lungo sulla vita delle donne che non sono sposate e ne potranno mai esserlo e sono giunta alla conclusione che non vi sia nulla di più rispettabile sulla terra di una donna che giorno dopo giorno costruisca la propria vita con pazienza e tenacia, senza il supporto di un marito o di un fratello e raggiunti 45 anni o più, possieda una mente equilibrata che le consente di apprezzare i piaceri semplici e di avere il coraggio di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza, la sensibilità per compatire le sofferenze altrui e la predisposizione ad alleviare, per quanto è nelle sue possibilità, la sua affezionata Charlotte Bronte. Mi scriva ancora quando ha tempo.